Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Fra poco andiamo nello spazio, Mercurio. Sì, su Mercurio andiamo, fa un po' caldino, ma pianeta in ospitale. Benvenuti a Mebius, incominciamo fra poco, adesso i titoli. Una delle missioni interplanetarie più ambiziose dell'Agenzia Spaziale Europea. Nel 2016 partirà la sonda BepI Colombo e sarà in grado di sopportare temperature fino a 300 gradi. Ormai ci siamo. Grandi attori e attrici del passato potranno recitare in nuovi film. Stanno arrivando le rivoluzionarie animazioni digitali. In una grotta nelle viscere dei Balcani sono stati trovati i resti ben conservati degli orsi delle caverne, vissuti fino a 20.000 anni fa. Per le teorie fisiche fondamentali ci sono ancora molti misteri da risolvere, ma la supersimmetria potrebbe essere la soluzione più importante. Eccoci qua, allora, siamo già in viaggio verso Mercurio. Sì, no, è quella che si dice, in realtà una delle missioni interplanetarie più ambiziose di quelle programmate dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. E qui con noi stasera, noi siamo contenti di avere il neopresidente Roberto Battistone dell'Agenzia Spaziale Italiana. Benvenuto, buonasera. Buonasera. Buonasera Battistone. Ecco, voi insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, insieme a quella europea, avete da pochi giorni presentato questa missione che si chiama BepI Colombo, che ricorda anche un nome prettamente italiano di uno scienziato veneto, che ci porterà nel 2016, se non erro, ad esplorare un pianeta piuttosto particolare che è appunto Mercurio. Ci porterà a partire nel 2016 per esplorare Certo. Lei ci sottolinea che non si arriva su un quarto d'ora. E occorre del tempo per percorrerlo. Certo. Ha perfettamente ragione. Quando arriverebbe? Arriverà senz'altro. Mi pare che prenda sui 3 o 4 anni, perché deve fare svariati flyby su altri pianeti, in modo da prendere la giusta velocità per inserirsi sull'orbita di Mercurio. Deve fare dei balzi di rincorsa, praticamente. Sì, e di aggiustamento di orbita. Nello spazio il carburante per poter correggere l'orbita o dare delle forti variazioni è prezioso, e quindi è più utile passare del tempo vicino ad altri pianeti per aggiustare l'orbita in modo tale da risparmiare sul carburante da portare a bordo. E queste tecniche sono quelle che BepI Colombo, Giuseppe Colombo, questo famosissimo scienziato padovano, aveva sviluppato per primo proprio per suggerire delle orbite particolarmente efficaci per visitare il sistema solare. Perché viene identificata come una spedizione, un'esplorazione interplanetaria molto ambiziosa, tra le più ambiziose della nostra agenzia spaziale? Perché Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, è un pianeta sottoposto a una radiazione infernale, a valori estremi fra la luce e l'ombra, che quindi il satellite, una volta che si mette nelle sue vicinanze, subirà questo tipo di radiazione intensissima e poi piomberà nel freddo estremo quando passerà dietro l'ombra del pianeta. Quindi sono condizioni molto diverse da quelle che abbiamo intorno a Marte, intorno anche a Venere o alla Terra. Occorre disegnare la strumentazione in grado di funzionare perfettamente per quanto riguarda le sue caratteristiche di misura, di osservazione, ma resistere a condizioni assolutamente infernali. Perché lì poi c'è anche il fatto che questo cambiamento, no, di temperatura avviene in tempi estremamente rapidi, e quindi c'è anche uno shock che le strutture subiscono. C'è un continuo shock. Ricordiamo che Mercurio è un pianeta che gira intorno al Sole in 58 giorni, cioè la sua rivoluzione è molto molto rapida, è un pianeta piccolo, e quindi anche il satellite artificiale che gli girerà attorno avrà dei tempi luce e ombra estremamente rapidi. E poi le temperature che dovrà sopportare, insomma, sono molto elevate, sono anche 300 gradi, quindi insomma temperature che di solito una sonda non è in grado di sopportare. Chiaramente la sonda è protetta con vari schermi dalla radiazione formidabile che riceve, sostanzialmente usa la radiazione solare per alimentare il funzionamento dei vari strumenti, ma si protegge accuratamente per mantenere in ombra, sufficientemente in ombra, a temperature accettabili il corpo del satellite, altrimenti non resisterebbe. Ripeto, l'obiettivo della missione è quello di osservare da vicino questo pianeta affascinante e misterioso. Come si formino pianeti così vicini alla propria stella è un processo molto interessante, molto difficile da capire. Chiaramente siccome i pianeti si formano per aggregazione di polveri e di asteroidi, stare così vicini a una stella vuol dire essere continuamente disturbati, è molto difficile fare aggregare, fare collassare e crescere un pianeta vicino a una stella, perché appunto la radiazione è intensissima e gli sbalzi di temperatura allo stesso modo non aiutano il processo di formazione. Infatti, capire come è fatto la sua struttura superficiale, la sua debolissima atmosfera, che sostanzialmente è quasi inesistente, di materiali pesanti. Certo. Senta, ma anche le comunicazioni terra-satellite devono essere particolarmente, insomma, performanti, perché in quelle condizioni non è facile. Certamente, c'è una questione naturalmente di distanza, quindi di debole segnale, di antenne che devono essere in grado anch'esse di resistere a temperature estreme, e su questo diciamo l'Italia è estremamente ferrata, abbiamo quasi un monopolio sulle antenne dei satelliti che girano per il sistema solare, antenne per la trasmissione dei dati, per la ricezione dei dati, e in questo caso in condizioni estreme. Noi abbiamo a bordo di questa missione sia strumenti per osservare, delle telecamere e degli spettrometri per poter visualizzare il tipo di materiali e la distribuzione della struttura superficiale di Mercurio, sia appunto degli accelerometri per cercare di fare una mappa tridimensionale delle strutture profonde nascoste di Mercurio, sia appunto la telecomunicazione via antenna, che è così accurata e sofisticata che permetterà di fare dei test sofisticati della gravità generale di Einstein, perché Mercurio è un pianeta che, essendo vicino al Sole, subisce fortemente gli effetti della gravitazione. Potrà addirittura mandarci delle immagini o è ancora presto? Assolutamente sì, avremo delle immagini di alta qualità delle superfici del pianeta, ma una superficie che si sa è estremamente variegata, con molti crateri, con molte strutture, ripeto, non è un ambiente, diciamo, tranquillo quello di Mercurio, quindi la superficie porta le cicatrici della continua esposizione all'erosione e agli effetti della stella che è vicina a lui, che è il nostro Sole. Parliamo della parte italiana della missione, nel senso che sono previsti 11 esperimenti, di cui 4 portano il marchio Made in Italy. Assolutamente, come ripetevo, gli esperimenti sono di fatto dei sensori. Allora abbiamo un sensore fatto apposta per prendere delle immagini di alta risoluzione, che permette sia di fare l'osservazione delle forme, quindi delle immagini diciamo che possiamo riconoscere con i nostri occhi, ma anche uno spettroscopio che permette di capire la tipologia della luce emessa e quindi di quali materiali abbiamo a che fare, quindi fare un'analisi chimica della superficie nonché della lieve atmosfera che esiste attorno a Mercurio. Poi abbiamo questo accelerometro che permette di osservare la presenza di masse anomale, di masse nascoste sotto la superficie del pianeta, e lo stesso l'abbiamo fatto con la Terra recentemente, con Gocce abbiamo misurato quanto è sferica la nostra Terra, in questo caso misureremo quanto è sferico, quanto è deformato localmente il pianeta di Mercurio. Poi appunto abbiamo questo esperimento di radioscienza per trasmettere segnali radio di altissima precisione temporale, che permetteranno di misurare gli effetti di distorsione dello spazio dovuta alla gravità attorno al Sole, fenomeni previsti dalla gravità di Einstein, ma che con questo strumento verranno misurati con precisione ancora maggiore. E poi abbiamo un altro esperimento che studia proprio le particelle elementari, la radiazione di alta energia presente nella vicinanza del pianeta e indotta dai fenomeni di violenta radiazione prodotti dal Sole. Lui è continuamente avvolto lambito dal plasma solare, da queste grandi emissioni di particelle molto energetiche, e questo esperimento misurerà la tipologia delle particelle e la loro energia. In conclusione, Battiston, quello che uscirà da questa missione è un'immagine, una conoscenza di Mercurio che cambierà probabilmente tutto quello che sappiamo adesso. È proprio vero, i pianeti che abbiamo a disposizione non sono tantissimi, alcuni sono più facili da raggiungere, Mercurio è uno dei più sfidanti a causa delle sue condizioni di temperatura estrema, le immagini che abbiamo abbiamo, i dati che abbiamo di Mercurio per adesso sono molto limitati, questo esperimento, questa missione, questi esperimenti ci permetteranno veramente di rivoluzionare la nostra comprensione di questo pianeta. E noi saremo qui a raccontarli, quindi sicuramente ci risentiremo. Battistone, intanto grazie, in bocca al lupo per il suo incarico. Tra qualche anno, ma cerchiamo di raccontarlo. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Io qui ho davanti già un video fermato. Chi è questa qui che si vede? È soltanto Charlize Theron. Ecco qua, in uno dei più grandi. Elegantissima. Elegantissima, fascinosissima. Infatti adesso ci arriviamo. Però stiamo per parlare di animazione digitale e bisogna avere ben chiaro qual è la potenza ormai di questa industria, di questa tecnologia, di questa attività. E lo facciamo, Chiara, con Christian Yesdich. Intanto ciao, benvenuto e bentornato. Ciao Chiara, ciao Federico. Eccoti qua. Ti diamo del tu perché sei già stato nostro ospite, sei responsabile del reparto effetti speciali di Square e di Media Contact. Corretto. Ok. E poi salutiamo anche Giorgio Scorza. Ciao, buonasera. Ciao Chiara, ciao Federico. Ecco, tu sei invece vicepresidente di Cartoon Italia, anche rappresentante della parte lombarda, e lavori per la tua società che si chiama Movimenti Production. Tutte e due lavorate nel campo dell'animazione digitale. Adesso noi, state un attimo lì voi, Giorgio e Cristian, perché noi ci vediamo insieme questo spot. Lo so che per radio gli spot pubblicitari non sono il massimo, ma adesso capirete perché possiamo vederlo. Per il semplice fatto che, ecco, adesso siamo partiti, c'è questa... ragazza che entra, Charlize Theron entra in questo salone fantastico. Magnifico, perché c'è una sfilata, lei mi pare che sia in ritardo. Sì, lei corre in queste sale fatte di cristalli e marmi. Lei si spoglia e attenzione, incontra un'altra, già arrivata, un'altra collega che è, eccola qui, Grace Kelly. Perfetta, ha incontrato Grace Kelly che era già lì per la sfilata, capisci? E ovviamente loro si stanno tutte preparando con questi vestiti, questi broccati, questi gioielli fantastici. A un certo punto Charlize, ormai la chiamo così, si gira e incontra Marlene Dietrich, che era già lì anche lei, ed era già pronta per salire sul palco. Molto più puntuali. Tutte si preparano, la sfilata ha inizio ed ecco che sta per entrare sul palco niente proprio di meno che Marilyn Monroe. Eccole qua, abbiamo fatto un poker d'assi. Oh, dunque, Christian e Giorgio e Chiara, noi abbiamo letteralmente visto Grace Kelly, Marilyn Monroe e Marlene Dietrich. Anche se non sono proprio coetanee. No, esatto. No, in realtà stiamo parlando di un video che si può trovare su YouTube, è una vecchia campagna promozionale di Dior, del profumo Dior, che è stata fatta un paio d'anni fa e, come ci spiegheranno adesso i nostri ospiti, è un gioiello di tecnologia, di animazione digitale. E noi abbiamo assolutamente visto queste attrici come vere, Christian. Questo vuol dire che siamo arrivati a un punto in cui l'animazione digitale può praticamente ricostruire la realtà. Attori che appunto sono scomparsi, per esempio. Innanzitutto grazie per averci fatto vivere questo spot in radio. Mi è piaciuto. Riusciti benissimo, molto, molto divertente. Assolutamente sì, Federico, è possibile. Come si può vedere in questo spot che abbiamo realizzato, il livello di realismo che fino a qualche anno fa dicevamo non eravamo ancora così sicuri di poterlo raggiungere per gli esseri umani, vi ricordate avevamo fatto questo distinguo, sì, no? Tu ci dicevi mancano piccole cose che fanno capire però che non è lei, esatto, non è lui. Perché fin da quando noi siamo piccolissimi vediamo esseri umani, quindi riprodurre digitalmente un essere umano è veramente molto molto complicato, però ci siamo anche riusciti, c'è riuscito il cinema, ci si riesce in pubblicità e sempre di più si va in questa direzione, nonostante oggi i costi di produzione per questi digital actors siano ancora molto alti, probabilmente troppo alti per far sì che una produzione possa affrontarli così. Sì, questo dura un minuto neanche, sì, ecco, esatto, ovviamente. Questo spot dura un minuto nella sua versione più lunga, 30 secondi in quella commerciale, e è stato uno sforzo produttivo gigantesco, sia in termini di budget che proprio in termini tecnici. Cioè tiene perché 30 secondi. Ecco, poi vorrei che fosse chiaro che non è che siete stati bravi perché avete messo insieme due filmati, un vecchio filmato di Grace Kelly e un nuovo filmato e li avete messi insieme. Cioè avete creato ad hoc... ricostruito digitalmente le attrici. Le attrici, certo. Sì, questo è impressionante. Che in qualche modo interagiscono proprio anche con la Charlize Theron che è fisicamente realmente sul set. Ecco, c'è dietro una tecnologia e anche un approccio produttivo molto particolare che è stato frutto della ricerca di cinema e di pubblicità di tutti questi ultimi 15 anni. Ecco, però Cristian, non con questi costi ovviamente, perché sennò sarebbero totalmente impraticabili, invece nei film che noi vediamo sta assolutamente dilagando l'animazione digitale. Cerchiamo di darne una misura, perché da dei B-movies, addirittura dei C-movies per la televisione, quelli più tremendi, fino però a delle robe estremamente invece di fascia alta, ormai per esempio, voglio dire, se ci sono aerei che volano, elicotteri, se ci sono edifici che crollano, non è organico, non c'è nulla di reale, è tutto ricostruito. Posso garantire che la produzione prima di qualunque produzione prima di noleggiare un aereo, un motoscafo o un elicottero mi chiede un preventivo perché questi vengano realizzati in computer grafica, perché diciamo ormai questo tipo di approccio, lo potrà confermare anche Giorgio, è assolutamente fattibile e praticabile da qualunque produzione. Ma anche perché, scusate, quello che va a cambiare è che, non so, per esempio io l'altra sera in televisione ho visto quattro elicotteri Black Hawk americani che entravano nella stanza ovale del presidente degli Stati Uniti, quindi non è che non puoi dire, scelgo, lo faccio vero o lo faccio, cioè il costo di farlo vero sarebbe impressionante e non avresti quegli effetti. Mi viene in mente Kubrick quando ha ricostruito la sua New York a Londra nei suoi studi per Eyes Wide Shut, ma insomma è un film per il quale ci ha messo 12 anni. 12 anni, sì. Quindi di conseguenza fare dei set digitali, queste set extension, è sicuramente pazzesco. Molto più conveniente, assolutamente fattibile oggi in produzione. È estremamente realistico. Il realismo è al 100%, completamente indistinto, anche per gli addetti ai lavori, dalla realtà. Ecco Giorgio, si può sovrapporre un'animazione digitale a qualunque ripresa invece naturale di un ambiente? Questo è poi la grande capacità di sovrapporre i due sistemi. Ma sì, guarda, adesso stavate facendo degli esempi, a me è venuto in mente, anche per dare un riferimento, il film di Alfonso Cuarón, Gravity, che ha avuto un budget pazzesco, ma è stato girato, se si vanno a recuperare le immagini di backstage, con dei grand green screen e tutto il resto è integrazione di animazione. La provocazione che fece proprio Cuarón presentando il film fu che il suo film aveva l'80% di animazione digitale, il computer grafica in senso lato, e Avatar, che per noi nell'immaginario è qualcosa di ricreato interamente, ne aveva il 60%. Ah, figuriamoci. Per dire che chiaramente era una provocazione, ma al di là della notizia così più aneddotica, è evidente che siamo entrati in un'altra dimensione, in un'altra era, dove chi riesce a padroneggiare tra l'altro la tecnologia riesce a fare la differenza. Perché poi i mondi sono talmente mixati che non sappiamo più distinguere cosa. Io ad esempio avrei detto che Avatar fosse molto effetto digitale, invece tu mi stai confermando il contrario. Ma ripeto, lì era una provocazione, perché però, come sapete, c'è tutta una parte dei due mondi, quindi è chiaro che poi soppesando la quantità di minuti fatti in digitale sono maggiormente quelli di Gravity, dove sempre è presente il digitale. Certo. Ma nella provocazione c'è comunque una mezza verità. Sì, si può prendere un attore in carne ed ossa e inserirlo in un ambiente totalmente digitale e noi guardando il film non ci accorgiamo assolutamente del contrasto, con costi che però, a parte lo spot di Dior che è certamente fuori standard, con costi però che ormai nella cinematografia standard si possono affrontare, funzionano. Anzi, in alcuni casi, come diceva Cristian, anche più economici anche della realtà. Ecco. So che noi, diciamo, in conclusione ci tenete a lanciare un appello, insomma, a farci capire qualcosa per quel che riguarda il vostro inquadramento del settore dell'industria italiana, esatto. Giorgio. Cioè, noi viviamo di una differenza veramente perniciosa tra come ci si può muovere negli altri paesi, come si muove questa industria per esempio in Francia, e come si muove in Italia, dove le potenzialità sono notevoli, abbiamo dei livelli di capacità, insomma, industriale assolutamente alti, però siamo penalizzati e soprattutto voi insistete su questo tax credit. Ci spieghi qualcosa, Giorgio? Allora, rapidamente, innanzitutto grazie per aver definito industria una realtà che mira ad essere industriale, ha probabilmente tutte le skills, ma fatica per evidenti problemi sistematici a essere tale. Cioè, è un sistema industriale perché ci sono varie televisioni che investono, ci sono dei fondi comuni a cui attingere, ci sono dei finanziamenti, c'è un mercato vero e proprio. Da noi la situazione, come in altri settori, quindi non raccontiamo nulla di nuovo, per i non addetti ai lavori, ci troviamo sempre in situazioni che, se non sono di monopolio, rasentano questa condizione, e quindi questo non aiuta. Riguardo al tax credit, rapidamente, finalmente siamo riusciti ad ottenere, siamo, intendo dire, tutti quanti in quanto comparto cinematografico e audiovisivo, ma con anche la parte di quella che è l'animazione riconosciuta, ratificata, e anche con le sue categorie, le sue voci di costo indicate, ad avere diritto a questa, al tax credit, all'imposta di credito del 15% del costo di produzione. Spieghiamola, cioè chi deve pagare, esatto, per esempio 500.000 euro di tasse, un'impresa può prendere una quota significativa e investirle in un'attività di cultura o di impresa, poi nel vostro caso sono assommate, e anche a fare un investimento a questo punto. Però, insomma, questo c'è in altri paesi e qui da noi non c'è. Allora, adesso la situazione è questa per l'audiovisivo. In realtà noi adesso abbiamo quello che si definisce finalmente, tra l'altro, il tax credit diretto per l'audiovisivo, cioè io devo produrre X e posso avere un risparmio del 15% sulla produzione perché ho un rientro di costi. Il tax credit esterno esiste per il cinema, non ancora per l'audiovisivo. Ci stiamo evidentemente lavorando, perché per paradosso, e questo qui rientra un po' anche il discorso, come dicevamo all'inizio, di associazione, per paradosso la produzione, vuoi seriale, vuoi di animazione digitale, vuoi di cartone animato nel senso più stretto e classico, è una delle poche cose che dall'Italia esportiamo fuori, curiosamente, certo, contrariamente al cinema, che spesso è molto, o anche alla fiction spesso e volentieri, perché è molto più localizzata. Questa cosa significherebbe investimenti esterni con rientri internazionali in termini, uno, di vil danaro, secondo, di immagine, e quindi un beneficio che sarebbe chiaramente per tutti quanti, certo, per tutto il sistema Italia, che non riguarda solamente l'audiovisivo. Aggiungo che l'unico punto, secondo me, molto interessante per pensare al futuro è che all'interno di questa ratificazione che ha fatto il ministro Franceschini, accolto dal MISE, che adesso sta aspettando l'autorizzazione della Commissione UE, è il fatto che rientra nel beneficio anche le produzioni audiovisive internazionali che vanno poi che a investono qua, certo. Quindi vuol dire, io sono straniero, cerco un coproduttore, un produttore esecutivo italiano per coprire un 20%, scusate se entro nel tecnico, ma anche dentro questa opportunità l'italiano ha la possibilità di avere uno sgravio dei costi. Questo significa internazionalizzarci, certo, che credo che sia sempre stato un tallone d'Achille per quelle produzioni che, anche se magistrali, sono rimaste spesso artigianali. Beh, qui però la notizia è che ci stiamo lavorando, sta arrivando. Innanzitutto sta arrivando di fatto il primo passo vero e proprio, e poi, insomma, noi siamo impegnati a lottare col sorriso sulle labbra per ottenere queste condizioni interessantissime, chiaramente. Noi crediamo in voi, come sapete. Facciamoci, quindi in bocca al lupo, davvero. In bocca al lupo. Grazie Christian, grazie Giorgio, buon lavoro davvero. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La cosa strana delle cose che riguardano gli orsi è che andiamo dall'orsacchiotto che ti tieni di fianco mentre dormi agli orsi affascinanti delle caverne. Sì, questo in particolare. E noi siamo qui adesso. Sì, questa in particolare è una specie, quella di Ursus Peleus, che è veramente bella, misteriosa. Poi ci faremo raccontare tutti gli aspetti paleontologici e di quanto sia affascinante dai ricercatori. Ma prima di entrare nel vivo del racconto più paleontologico, direi di raccontare quella che è stata una spedizione che è rientrata da pochissimi giorni. Ha visto protagonisti un gruppo bolognese, adesso li introduciamo, abbiamo tanti ospiti quindi andiamo un po' spediti. Hanno fatto una spedizione nelle viscere dei Balcani, in particolare in Bosnia Erzegovina. Quindi ci colleghiamo, direi, come prima testimonianza, primo passo, certo, con il capo spedizione Nevio Preti. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Lei ha portato lì questo gruppo, questa spedizione, lei è del gruppo speleologico bolognese e in qualche modo l'avete scovata voi questa grotta? Sì, è una grotta che noi abbiamo scoperto nel 2010 e con una barra anche due spedizioni all'anno l'abbiamo esplorata fino a diventare la grotta più lunga della Bosnia Erzegovina, circa 10 km di sviluppo ormai. Ah però! Sì. 10 km, e quanto sotto? Beh, diciamo che rispetto all'esterno non siamo a poche centinaia di metri perché praticamente siamo sotto un altopiano e l'ingresso è alla base di un canyon dove scorre un fiume, quindi diciamo che il dislivello non è alto, anche se la difficoltà è stata comunque grande perché è tutto un saliscendi, quindi abbiamo dovuto applicare tutte le tecniche speleologiche di salita e discesa su corda, quindi la cosa complicata è stata quella. Laghi, fiumi. Infatti com'è che ci racconti un po' noi che non ci possiamo venire, com'è fatta? Poche parole, l'ingresso è un enorme portale di circa una 20-30 metri dove viene fuori questo fiume enorme e risalendo questo fiume, quindi superando un primo lago iniziale, e abbiamo poi dopo trovato delle risalite dove siamo finiti nelle sale, nei rami fossili della grotta, e di lì sono partite le esplorazioni. In uno di questi rami, in particolare nel ramo di sinistra, abbiamo trovato poi questo grosso giacimento di orso spelio, di l'orso delle caverne estinto circa 20.000 anni fa. Ecco. Questo insomma ha creato un po' l'interesse dell'università e quindi quest'anno siamo tornati in forze facendo anche formazione poi ai ragazzi per paleontologia per permettergli di arrivare a studiare sul posto, quindi superando anche le difficoltà di carattere speleologico. Infatti, ora veniamo a tutta la parte scientifica della spedizione, lo facciamo con un professore geologo dell'Università di Bologna, Jode Vaele. Buonasera professore. Buonasera. Anche lei appartiene all'Istituto Italiano di Speleologia e lei è stato lì per studiare invece tutta la parte legata alla geologia di quella grotta che Nevio Preti aveva scovato nel 2010. Sì, perché la presenza degli orsi chiaramente ha resa questa cavità molto interessante dal punto di vista scientifico. Poi abbiamo quindi messo su una squadra multidisciplinare per studiare non solo i resti paleontologici e quindi descrivere questo sito, ma anche cercare di capire da dove erano entrati e ricostruire il clima del passato, la vegetazione che c'era su queste montagne quando quest'orso viveva lì. Quanto era profondo dentro la grotta il luogo dove c'erano gli orsi? Per lo speleologo di oggi ci vogliono 2 ore di cammino sottoterra, quindi bisogna andare un po' su, un po' giù per le corde, ci vuole un addestramento. Per gli orsi sicuramente era molto meno. Ma perché lei dice questo? Cioè 2 ore di cammino? Sembra strano pensare che una famiglia di orsi entrasse nella loro tana e camminasse per lei ore. Dice meno, un'ora. Sì, infatti ho detto per gli speleologi di oggi arrivarci ci vuole molto. L'orso chiaramente non entrava da dove siamo entrati noi, quindi non usava le corde e i vari attrezzi. E da dove entrava, scusi? Entrava da un ingresso molto, cioè adesso tappato, cioè c'è una frana. Sicuramente faceva comunque più di 100 metri in grotta, quindi faceva una specie di speleologo del suo tempo. Quindi andavano in profondità. Sì, gli orsi si sa che facevano anche fino a 800 metri sottoterra, probabilmente utilizzando chiaramente non la vista perché c'è buio, ma il fiuto, cioè gli odori. Veramente interessante. Questo è proprio un dato che non abbiamo mai incontrato. E dal punto di vista invece geologico, che appunto so che lei ci tiene molto, che tipo di habitat è? La grotta è un ambiente molto conservativo, cioè la cosa molto interessante delle grotte è che sono dei tesori sotterranei in cui possiamo trovare tracce del passato molto più semplicemente rispetto a quello che possiamo fare fuori, dove agisce il vento, i fiumi e l'opera umana anche tra l'altro. Quindi questi orsi che sono entrati in grotta si sono fossilizzati in questi ambienti, sono stati coperti anche da uno strato di calcite, quindi concrezione, che consente di studiare questi orsi e queste ossa in modo molto bene. Insomma. Perché sono più conservati. Sì. Questa grotta ha delle sue particolarità rispetto ad altre o no? Eh, la più grande particolarità è sicuramente questo sito di orsi fossilizzati in perfetto stato di conservazione, insieme a tutta una serie di concrezioni che consentono di cercare di sapere, diciamo, il tempo in cui questi orsi frequentavano questa grotta. In più le concrezioni consentono di cercare di fare delle ricostruzioni paleoclimatiche, quindi ricostruzioni del clima del passato e anche della vegetazione attraverso studi geochimici di questi speleotemi. E quindi voi vi siete portati dei campioncini da studiare, insomma. Abbiamo avuto anche l'autorizzazione a prendere dei piccoli campioni, sia di resti ossei e di denti, ma anche di concrezioni per fare questi studi. Che tipo di informazioni ci può dare un pezzo appunto di calcite o di una roccia? Se la calcite neoformata, quindi una concrezione, può essere datata attraverso l'uranio e il torio, quindi geochimica pura, che è molto preciso, cioè possiamo datare con una precisione anche di 100 anni. Una datazione molto dettagliata, precisa. Dettagliata per scale geologiche di questo ovviamente. Tipo. Certo. 100 anni sono niente. Potrebbe avere un'età di 20.000 fino anche 200.000 anni, che è una finestra temporale facilmente identificabile attraverso questi metodi geochimici. In più le concrezioni comunque contengono anche altre informazioni, cioè possiamo ricostruire la temperatura dell'acqua che precipitava questa calcite, possiamo ricostruire anche il tipo di vegetazione che era presente fuori dalla grotta. Beh, quindi insomma un sacco di informazioni su quello che era l'habitat di un tempo. Sì, sono delle indagini che costano tantissimo, infatti li facciamo insieme ad università anche estere. Bene, allora adesso cerchiamo invece di capire la particolarità di questa specie, Ursus speleus, e lo facciamo con uno degli studenti che è andato lì e si è sporcato le mani in questa grotta. Diamo il benvenuto a Stefano Cattarin, buonasera. Buonasera. E lei sta studiando paleontologia presso l'Università di Bologna ed è stato mandato lì per in qualche modo analizzare tutti questi resti fossili. Intanto, se ci dice che specie è questo Ursus speleus, questo orso delle grotte, delle caverne. Allora, l'Ursus speleus è un orso che si è estinto all'incirca 20.000 anni fa e ha vissuto, diciamo, l'ultima glaciazione, quindi la sua particolarità era quello di svernare all'interno delle grotte, e appunto questa sua particolarità è determinante dal fatto che si trovano molti resti all'interno delle grotte di tutto l'arco alpino, diciamo, e anche in zone come i Balcani e i Pirenei. Qui lei ha detto una cosa interessante che però contiene un interrogativo: svernare nelle grotte. Intanto questo dovrebbe probabilmente dirci il perché andavano così in profondità. In letargo andava, no? No, sì. Però andavano anche in profondità perché se fuori c'era un freddo micidiale, certo, giù si poteva stabilizzare la temperatura. Però poi voi trovate tanti resti lì. Ma cosa vuol dire? Che andavano lì comunque a morire? Sì, diciamo che comunque avevano poche probabilità di sopravvivere e passare, diciamo, l'inverno, quello più rigido. Ah. E quindi c'era anche la tendenza ad andare là a morire. Perché tentavano magari di uscire dopo il letargo e le condizioni erano impervie. Sì, comunque bloccata la via d'uscita. Ah, certo. Oppure era troppo freddo, ok. Esatto. E invece come ce lo immaginiamo? Ce lo immaginiamo come un orso bruno di adesso? Insomma, che dimensione aveva? Aveva delle mascelle? Aveva dei denti molto sviluppati? Beh, le dimensioni erano paragonabili a quelle del grizzly, anche se era un pochino più grande. Aveva un muso un pochino più pronunciato e quindi una fronte meno bombata, ed erano prevalentemente erbivori, quindi anche i denti erano meno a punta, meno acuminati, ed erano atti appunto alla masticazione di vegetali. Prevalentemente erbivori. Quindi era un panda. Quindi come fanno ogni tanto gli orsi, in particolare i grizzly, insomma, messo in piedi era un 3,5 metri, una roba del genere? Sì, all'incirca sui 3 metri, stando sulle zampe posteriori. Un animale intorno ai 700-800 kg, una cosa del genere? Sì, diciamo la media era sulla mezza tonnellata. I resti invece che avete trovato lì, che informazioni vi danno e soprattutto che cosa avete trovato? Tutti gli scheletri, ci diceva il professore che erano molto ben conservati. Sì, erano molto ben conservati, però non si è trovato uno scheletro completo, diciamo, nella sua ultima posizione, nel senso che si trovava il cranio da una parte e tutte le altre ossa disperse un po' nella grotta, quindi non erano completi e integri. Come mai questo? Voi, quando trovate una cosa di questo genere, uno verrebbe da pensare che proprio in una grotta dovrebbe essere tutto lì, e invece no. Perché probabilmente c'è stata una rielaborazione delle ossa da parte di acqua, o comunque c'è stato un qualche intervento esterno. Che ha portato via pezzi di questi corpi. E cosa avete fatto? Vi siete portati a casa qualche resto da studiare? Cosa c'è da sapere? Sì, abbiamo prelevato qualche campione per riconoscimento delle specie, per confermare appunto che fosse Ursus speleus, e sono stati trovati anche campioni che non erano solo di Ursus speleus, quindi abbiamo prelevato anche quelli per determinare cosa fossero, specie, per ricostruire un po' la paleofauna della zona. Quanti animali potevano essere presenti in questa grotta? Qua erano abbastanza i crani che abbiamo osservato, per cui però era abbastanza difficile determinare quanti individui ci fossero, anche perché c'erano vari strati di terra, di terriccio, che si erano accumulati e all'interno c'erano altre ossa. Quindi una tana usata per decenni, per generazioni diverse. Sì, per molto tempo, anche se diciamo in tempi geologici si è chiusa molto presto. Va bene, molto bella questa iniziativa del mettere insieme insomma gruppi speleologici insieme alla ricerca, insieme all'università. Davvero complimenti, grazie Catarin, grazie Devaele, grazie Preti, e buon lavoro, fateci sapere quando tornate là. Grazie a voi. Arrivederci, buona ricerca. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Insomma, non si può vivere tranquilli per più di tanto. Viviamo in un mondo che è fatto così, anche con la scienza. E per parlare di ciò questa sera ho qui con noi Antonio Masiero. Buonasera Masiero. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Vicepresidente dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Insomma Masiero, voi dovete mettervi una mano sul cuore, voi particellari, fisici delle particelle, perché abbiamo vissuto, e noi con Mebius l'abbiamo seguito moltissimo, tutta la vicenda del bosone di Higgs, che se non lo si trovava era una tragedia per la fisica. Poi è stato trovato, eravamo tutti sereni, adesso viene fuori questa cosa della supersimmetria, cioè anche qui se non riusciamo a risolvere le cose, a portare a casa qualcosa, dobbiamo cambiare completamente la fisica. Ma un po' di coscienza dovreste averla, non riusciamo ad avere momenti di serenità. Sì, guardi, questa è la caratteristica un po' della scienza, non si è mai tranquilli. Allora, nel nostro caso, innanzitutto va ribadito che la scoperta del bosone di Higgs non è semplicemente il ritrovamento dell'ennesima particella. Qui veramente abbiamo fatto un passo da giganti, nel senso che non solo abbiamo trovato l'ultimo tassello di quel mosaico che noi chiamiamo il modello standard, che è la teoria fondamentale, diciamo, delle particelle elementari. Queste particelle elementari sono proprio i mattoni fondamentali della materia. Ecco Masiero, c'è questo modello standard che da tanto tempo insomma è un po' una specie di bibbia di riferimento, no? È qualcosa che cerca di spiegare come dovrebbe andare tutto questo mondo delle particelle. Infatti, standard risale alla metà degli anni 60, e praticamente da quel momento in poi noi abbiamo man mano ricostruito gli pezzi che erano previsti da questo modello. Ci mancava l'ultimo pezzo, questo appunto bosone di Higgs è un po' l'asse portante del modello, nel senso che ci ha fatto capire qual è l'essenza, la natura di queste forze che agiscono tra le particelle elementari, e in particolare ha associato queste forze a delle simmetrie di natura, quindi è un balzo in avanti enorme. Ecco, qui possiamo, mi scusi Masiero, possiamo dire, perché può diventare abbastanza oscuro questo fatto delle simmetrie. Ecco, in tutta la fisica a un certo momento si è capito che la simmetria, il fatto che poi dai conti viene fuori questa simmetria, è un asse portante del funzionamento dell'universo, no? Sì, noi che abbiamo capito è che le leggi fisiche sono associate a dei principi di simmetria, se vuole, a delle leggi, diciamo, geometriche. Esatto. Quindi voi cercate, no? Quando siete sempre a caccia, diciamo, di simmetrie, questo è un parametro di fondo. Ma comunque lei ci stava dicendo, anzi, forse, se mi permette, lei ha scritto un bellissimo articolo all'interno dell'ultimo numero delle Scienze, all'interno di un articolo più ampio che tratta proprio questo problema di cui stiamo discutendo. E lei lì fa un esempio molto, molto bello che voglio ricordare agli ascoltatori. E cioè lei dice: noi abbiamo un po' come un edificio a diversi piani, no? E in ogni piano c'è una teoria che ci dice come vanno le cose. Per esempio, abbiamo tutte le teorie sull'elettromagnetismo da tempo, e lì noi facciamo un sacco di cose, insomma, ci abbiamo costruito apparecchi d'ogni tipo con quel tipo di teoria. Però a un certo momento manca un pezzo, si scende a un piano inferiore, c'è un'altra teoria che funziona, però anche lì manca un pezzo, quindi insomma... ci sono delle teorie soddisfacenti, ma hanno sempre qualcosa che non funziona se dobbiamo interpretare come vanno le cose in generale. Noi qui stiamo arrivando al piano Terra. Sì, guardi, direi che ci stiamo avvicinando a questo piano Terra. A essere sinceri, non siamo neppure sicuri che ci sia un piano Terra, ecco. Perché non sia un cammino infinito con tanti infiniti piani. Comunque, quello che è sicuro è che col modello standard noi abbiamo fatto un enorme passo avanti, cioè abbiamo conquistato un piano di assoluta importanza di questo edificio. Uno strumento è buono, diciamo, però non completo. La cosa che è interessante è che da una parte siamo entusiasti, diciamo, di quello che abbiamo raggiunto, dall'altra ci rendiamo conto che ci sono senz'altro dei piani di questo edificio che sono tuttora completamente inesplorati. Il primo argomento che ci porta questa propensione, diciamo, a vedere al di là del modello standard è il fatto che addirittura l'80%, quindi dico la maggior parte di tutta la materia presente nell'universo, non è fatta da quelle particelle elementari che sono presenti nel modello standard e che noi abbiamo trovato nelle nostre macchine acceleratrici. Probabilmente uno dice: ma come? Mi avete detto che avete una teoria fondamentale delle particelle, dei mattoni ultimi che costituiscono la materia, delle forze che ci sono tra questi, e poi mi dite che l'80% però della materia non è fatta da questi oggetti descritti dal modello. Certo, è un bel buco, no? Però non c'è solo questo. Non c'è solo questo. La materia domina nel nostro universo, fortunatamente, perché se ci fosse tanta antimateria quanta materia, tra le due ci sarebbe una annichilazione, cioè praticamente scomparirebbe sia la materia che l'antimateria, e noi appunto non saremmo qua a parlare di questo adesso. Ecco, la cosa interessante è che se uno dice: beh, ma ci sarà quindi un meccanismo nell'universo primordiale, nei primi istanti dell'universo, che fa sì che la materia prevalga sull'antimateria. Nelle nostre macchine acceleratrici noi produciamo tanta materia quanta antimateria, quindi nel brodo primordiale delle particelle presenti nel primo universo noi ci aspettiamo che ci siano tante particelle quante antiparticelle. Ci deve essere stato un meccanismo che è riuscito a far prevalere l'una rispetto sull'altra. All'altra. E questo non riusciamo a spiegare. E questo nel modello standard quantitativamente non riusciamo a riprodurlo. E c'è ancora qualcosa? Ma sì, guardi, aggiunga a questo un fatto veramente molto, molto interessante e che appassiona molti dei fisici particellari, cioè una delle particelle più misteriose, diciamo, del modello standard, fra l'altro è una particella che parla anche un po' italiano, perché il suo nome è neutrino. Il nome neutrino è stato proprio proposto dal nostro Enrico Fermi. Beh, diciamo, questo neutrino nel modello standard è previsto che abbia massa nulla. Ci sono particelle che, ad esempio, i fotoni di luce non hanno una massa. Ecco, si pensava che anche i neutrini, proprio perché il modello standard dice: guarda, il neutrino non ha massa. Beh, noi sperimentalmente abbiamo trovato dei fenomeni che conducono alla conclusione che il neutrino invece ha una massa molto piccola, è la particella che ha la massa più piccola di tutte, però non è zero. Non è zero. Quindi questo vuol dire che ci deve essere qualcosa che non è contenuto nel modello standard, cioè una nuova fisica, come la chiamiamo noi, che produce questa massa dei neutrini. E noti che questa massa dei neutrini è cruciale per molti dei processi che conducono anche alla presenza poi della vita qui sulla Terra. Super. Quindi stiamo parlando di fatti fondamentali dell'universo. Certo, sono tutti elementi cruciali, sono tutte chiavi di volta. Ecco, ma arrivando allora adesso, cos'è questa ipotesi di una supersimmetria che potrebbe forse spiegare questi vuoti, questi buchi? Sì. Ecco, guardi, quello che è interessante è che il bosone di Higgs, nuovamente, potrebbe essere un po' la chiave di volta di questo percorso, perché proprio la massa del bosone di Higgs ci ha fatto indurre all'introduzione di nuovi tipi di simmetrie e di particelle, in particolare proprio la leggerezza, diciamo, del bosone di Higgs, cioè il valore della sua massa, ha spinto molti fisici teorici a ipotizzare la presenza di una nuova forma di simmetria che noi non abbiamo mai visto in natura. È una simmetria, diciamo, formidabile, maggiore, diciamo, più potente delle simmetrie presenti nel modello standard. Tant'è vero, le abbiamo dato anche il nome che mostra questa sua potenza, diciamo, l'abbiamo chiamata supersimmetria. Quello che è importante è che la supersimmetria ha una previsione che è sconvolgente. Cioè, ci dice che per ogni particella ordinaria che esiste, cioè per esempio un elettrone oppure un quark, deve esistere un partner che è il partner supersimmetrico di questa, cioè una particella che ha una proprietà che si chiama spin, che è diversa, ma che ha la stessa carica elettrica e qui certo altre proprietà. L'esemplificazione del concetto di simmetria. Ma diceva? Ma spin diverso e massa diversa. Ecco, è importante il discorso di massa diversa, perché una teoria può essere molto bella, può essere avvincente, però diciamo quando si fa fisica c'è un giudice che è supremo, diciamo, questo giudice si chiama esperimento. Cioè io posso proporre la teoria più bella del mondo, ma se poi devo dare delle predizioni che conducano a una verifica sperimentale di questa mia teoria. Ora qui l'implicazione della presenza di questa nuova simmetria in natura, cioè la supersimmetria, conduce a un'importante implicazione sperimentalmente verificabile, cioè dovrebbe esistere accanto all'elettrone, dovrebbe esistere un partner, un fratello, diciamo, dell'elettrone. Gli abbiamo già dato anche un nome, abbiamo chiamato selettrone, proprio selettrone, perché da simmetria. È una particella supersimmetrica e noi abbiamo le caratteristiche di questa nuova particella, però non sappiamo la sua massa. Quello che noi sappiamo è che se la supersimmetria è collegata al bosone di Higgs, allora queste particelle supersimmetriche devono essere dietro l'angolo. Adesso lì vicino, nell'intorno del bosone, come nell'intorno massa. Di valori di massa non distanti, non distantissimi dal bosone di Higgs. Sarà molto importante vedere nei prossimi anni che cosa succederà in questa macchina acceleratrice che ripartirà fra un anno a un'energia che sarà quasi doppia rispetto all'energia con cui ha lavorato fino adesso, ma quindi adesso noi possiamo aspettarci che questo problema di cui stiamo discutendo potrebbe trovare una soluzione in questa nuova versione dell'LHC. È un pochino come l'esploratore che parte. Prima avevamo una carta nelle nostre mani, una mappa che era rappresentata dal modello standard. Adesso noi sappiamo che c'è una nuova Terra al di là di quella del modello standard, però non sappiamo dove si trovi questa nuova Terra né come sia fatta questa isola che cerchiamo. E l'unica risposta è navigare, come è avvenuto spesso per grandi imprese umane. Antonio Masiero, grazie per questo scenario. Senz'altro, la ringrazio io. Buonasera. Grazie, buon lavoro. Va bene, cosa posso dirvi? Chiara non c'è più, è andata via, io ho finito gli argomenti, ci si sente per la prossima puntata. Buona settimana a tutti e a tutte.